contrario dall'inizio fino agli anni 70 quasi, finché ha retto Ciru. Ciru non è, c'era gente a 120 che riceveva, cavolo. Ce n'era di gente brava in quel campo, però oramai con queste tecnologie che si va sempre avanti, e così a ognuno il suo tempo, Natalia. Sì, infatti l'hanno tolto anche dall'esame, quando l'ha dato Tore per esempio, c'era, lui l'ha dato l'esame di CV2. Sì, l'ha dato anche bene, perché era veloce, Tore, caspita. E quindi, insomma, ha fatto un figurone, è passato a razzo. Bravo. Io conoscevo il geometra lo stesso, non quello che ti ho detto, un altro geometra che quello a 120 riceveva, un mostro è. È una questione d'orecchio pure, una questione proprio d'orecchio, ma a me piacciono quelli dei film alla radio, quelli, se ricordi, Fioretto a Denny Boy, Fioretto a Denny Boy, anche se la zona era alta, comunque con quel tipo d'antenna, vabbè, all'epoca magari c'erano meno disturbi, però con quell'antenna telescopica sarebbe stato bello capire che apparecchio era e soprattutto in che frequenza era. Hai visto quel film con, c'era Clint Eastwood con Richard Burton, dove usano le aquile? Sì, che l'ho visto. Hai visto che radio, c'era quella stazione su quella montagna che era formidabile. Cata, io, e se no la radio che ho visto in zona di Cagliari, che ce l'aveva un mio parente, era colonnello, quello aveva ogni radio paurosa, quello ce l'aveva costruita lui, si buscava i pezzi piano piano, ma era enorme, ogni radio. Poi dipende, se era solo CV era anche più semplice da fare, se invece era, c'era anche altri sistemi di modulazione, diventava man mano sempre più complicata, ma le radio allora erano fatte anche di poche valvole, perché a quell'epoca le valvole erano un oggetto molto costoso, richiedeva particolari lavorazioni. Infatti un altro problema della guerra era proprio quello di fornire tantissime valvole, che era una cosa strategica praticamente, perché erano delicate, poi si guastavano spesso e si dovevano cambiare altrettanto spesso, quindi era un problema. Ce l'aveva anche lui il baracchino in macchina, ragazzi. Ce l'aveva una Sigma DX dietro, di quelle bianche, che sembrava un radiale di Mantova. E lui me lo diceva, questa roba non serve a nulla, la banda laterale è quella che conta. Io lo grido, ed era il radioamatore. Beh, la banda laterale è nata... è nata un po' di tempo dopo, dovrebbe essere sempre una questione dell'epoca bellica, però la sua espansione è stata nel dopoguerra, soprattutto in campo navale, in quelle circostanze lì, ecco. E allora era il fiorire della radio, anche per la radio amatori. E c'aveva questa radio grande in casa sua, bella, e lui parlava con quella, parlava, era una radio militare sicuramente, lui con i pezzi ce l'aveva assemblata lui. Sicuramente era così. Tu radio militare non hai avuto nata lì? No, negativo. Se ne avessi trovato qualcuna che ha le HF per ascoltare, sarebbe stato bello qui. Gli avrei messo una colonnina esterna, tanto già ce ne ho qua colonnina, e avrei ascoltato con quella. Ma sono belle quelle radio lì. Sì, sono belle, ma fanno pure pagare anche quelle. Oggi siamo proprio soli, soliti, anche vero che meglio se rimane accompagnati, però insomma, è così, forse siamo rimasti solo noi due a Natale in tutto 27, caspita. Sì, adesso perché c'è caldo, la gente se ne va in giro magari e non stanno entrando. Giulio sta guardando le partite, ci ha abbandonato, Marcolino lo stesso. Ma Gianni no però. Vedi Gianni, vedi che è entrato uno. Ciao già, buonasera. Buonasera anche a voi. Io mi sono messo il ventilatore a fiacca, che no che lo si bussa. Avevo l'aria condizionata, stavo pulendo la casa e mi sono messo l'aria condizionata, adesso non aspetto, avevo messo il ventilatore vicino. Ma si bussava a rugare, sono uscito alle 4:30, ma Natalino si buddiassa. Me lo posso immaginare, è uscita mia moglie a portare il cane, è uscita a quell'ora lì. Conviene il cane portarlo, la mattina presto, la sera tardi adesso, sennò anche i cuscinetti del cane, come se riscalda l'asfalto, li brucia i cuscinetti. Sì, infatti, la mattina lo porto io e la sera mia moglie. E che vuoi fare? Tutta mattina siamo andati a fare la seconda dose del vaccino. Manco l'ago ho sentito, ma infatti ho detto, ma siamo sicuri me l'ha fatto lui. Ma già ti ha fatto lo stesso, tu cosa avevi fatto il Pfizer? Ti ha fatto lo stesso quello? Sì signore, mi ha fatto il Pfizer, quello che avevo fatto la prima volta. A che avanzo fede che tu mi siamo lì, Uia? Ti fanno finire la salsa negativa, il secondo fanno Pfizer, fanno Moderna, quello che hanno, capito? Come messi da macello. No, quelli che hanno fatto l'AstraZeneca, io avevo fatto già il Pfizer e il Pfizer mi hanno fatto, infatti c'è scritto così. Comunque effetti collaterali, niente Natale, non ti fa male manco il braccio. Nulla, nulla. Né questa volta né l'altra volta, non mi ha fatto nessun effetto collaterale. Mi ha chiesto se stavo bene, se ero allergico a qualcosa prima di firmare la situazione. E me lo hanno fatto. Sono andato anche prima del dovuto. Sono sceso con la macchina giù tutto qua. Tutto di lusso. In un'oretta abbiamo fatto tutto, va, sono velocissimo. C'era una marea di gente, meno male che già si stanno vaccinando la gente. Non tutti, no, già ci sono quelli che non si vaccinano, ma comunque Natali, fate un altro reversibile, no, a me mi hanno dato un po' di effetti collaterali. Il braccio mi ha mezzo paralizzato, c'era un dolore fortissimo, ho dovuto prendere anche lui. E poi questa stanchezza disumana. E poi già mi è passato, però dai, dopo un po' di giorni mi è passato tutto. A me male il braccio, lo sai quando me l'ha fatto? Quando me mi aveva preso la dottoressa nostra, ti ricordi? Mi aveva preso a forza perché dice che io ero a rischio, mi ha fatto un vaccino antinfluenzale, beh, lo sai, mi ha fatto male veramente il braccio. Come la mano di chi te lo fa? Boh. È in pensione, non c'è più. Già lo so, già lo so. Io me l'ho preso qua vicino perché già mi viene male, se cammino un po' subito mi viene quel dolore alla gamba, capito? Ma vabbè. C'è Gianfranco anche mi. Già. Ciao Gianfranco, ben sentito, dai, buonasera. Sì, ciao Gian, quando stavate parlando sentivo le altre modulazioni che ogni tanto arrivano questi strati enormi di propagazione. Natali, tornando a quello che stavamo dicendo prima, lo sai, io ho cercato, no, io la buona volontà di cercarlo, ce l'ho messo, un apparecchio che a quanto pare però lo usano solo in ambiente di regia e non in campo amatoriale. Lo stavo cercando disperatamente, però non, i costi erano talmente alti, poi c'erano i problemi di utilizzarlo per lo scopo a cui serviva a me, per uno scopo radio. E niente, sembra che non ci sia. Figurati. Ma lo volevo addirittura progettare. Ho visto degli schemi, ma poi iniziavano a essere anche complessi e quindi ho detto ma... E infatti è complicato a farlo, non l'unico. L'unico che ci poteva riuscire era un amico mio, ma quello era bravissimo in elettronica. Quello già se l'avrebbe fatto. Qui c'era anche la strumentazione. Più gli strumenti, ce ne vuole poco di loro. In gergo tecnico si chiama una VC, però è una cosa molto, non dico complessa, ma da costruire canna canna oramai. Riprendi già. Di cosa state parlando? Di apparecchi militari? No, sì, anche. No, io stavo parlando di un congegno che serve a rimediare ai guai che combina la gente. AVG vuol dire Automatic Volume Control, o gain. Praticamente adesso, ad esempio, in questa situazione io ho problemi ad ascoltarti. Cioè sta uscendo bene, già benissimo. E il problema è che se è troppo, troppo forte. Natalino invece è molto basso e quindi devo stare col volume alza bassa, perché sennò diventa una sofferenza. Ce l'ho al minimo io il microfono, se lo metto al massimo è una bottega. Ma è troppo, quasi a strappare, fammi, troppo metallico rimane. Vabbè, metallico rimane perché c'è la capsula ceramica questo microfono, anche il tavolo rimane metallico. Sì, ma come anche in paragone alle modulazioni che senti sotto, è esagerato, è come che ti metti l'orecchio attaccato all'altoparlante perché c'è un segnale, e pum, appare quello forte, e quindi non è gestibile, capito? Comunque così. Vabbè, dai, sto zitto, vi ascolto. Nessuno ti dice di non usarlo, però io ho sentito anche altri che te l'hanno detto. Perché è una questione di orecchiabilità. Immaginati una musica che va con dei bassi proprio con un volume bassissimo, e poi di colpo ti dà un colpo di tromba che ti assorda. Capisci quello che voglio dire? Cioè ci arrivi, sì. Sì, ma io non ti posso fare nulla, perché questo è al minimo adesso, no? Meno di così non lo posso abbassare. Così stai andando bene. adesso inizia a essere livellata, è il termine della modulazione, livellata con quella degli altri. Io non so se la mia sia troppo bassa, normale, alta, però nessuno mi ha mai detto niente, se me lo dicono c'ho il coso che la abbasso. Ma va bene. Sì, scusate un attimo, il telefono mi chiamano. Ma vabbè, io riesco a regolarmela con l'orecchio, dai, non c'è problema. A me già va bene, lo stesso, non c'è problema, già fra. Questo microfono è un microfono amplificato, è una static che è fatta apposta per farsi sentire, no? Per metterlo come un microfono dinamico. Come mai adesso stai dicendo bene già? Evidentemente o l'hai allontanato, qualcosa hai fatto, perché usciva troppo forte poco fa, andava quasi a strappare, non sto scherzando. E adesso già sei tu. Sì, ma l'amplificazione si sente adesso. Eia, ma non è esasperata come quella di poco fa. Poco fa era forte, mi. Troppo voce, mi. Ecco cosa ti volevo dire io. Io non dico di non amplificarla alla radio, ma quando è troppo forte, è troppo forte. Si spacca le orecchie. Capito cosa ti voglio dire io? Io parlo sempre a voce bassa lo stesso, proprio per non... Perché se io me lo avvicino, io ce l'ho lontano, Mimico, se io me lo avvicino, amplifica ancora di più. Eh beh, certo. Lo so. Vabbè, io non mi sono mai ascoltato, quindi la regolazione giusta non so quale sia. Quindi me lo dite voi adesso, e sto facendo come state dicendo voi, lo sto allontanando. Vediamo un po' se va meglio. Dai, Gianfra, come ti va adesso? Pompa, lasciala come la prima. Zitto, tu che tu c'hai sempre la radio a combattimento, che? Allora, non ti aiuto, non l'ho amplificato a buona ondata. Bompa Gianni, bompa! Vedi chi c'ha? Chi adesso si vede? vabbè. Perché Gianfranco dice che gli ho sturato le orecchie qua. E i gufi ci buon Gianfranco, basta pulire i gufi. E anche a me ha detto la stessa cosa, detto che questa è troppo forte, che l'altra è meglio. A me mi piace essere spalviero però, quindi non c'è niente da fare. Va bene, continuate. No, stai andando bene già. Poc'anzi eri al limite, però adesso va bene, beh. Comunque lo puoi anche sollevare appena appena. Brecco, Brecco. Ehi, Ciocla. Avanti, Brecco. Avanti, Brecco. Buonasera, qua Ivan, da Esperia, provincia di Frosinone. K Ivan, Gianni Doppio Runda, città di Sassari, nord Sardegna, avanti. K Sassari, ben ascoltato, qua fa il segnale 7, radio 4-5. K, dai, ben sentito, una stretta di mano, sono in compagnia di Natalino e di Gianfranco, dai, te li passo da 1-1, vediamo un po' se li coppi, avanti Natalino. Ciao Ivan, ben sentito, è 73, qua la città di Sassari, avanti ancora te se mi hai ascoltato. K, Natalino, ti ascolto forte e chiaro, ben ascoltato anche a te per la prima, dai, io sto qua in provincia di Frosinone, 20 km da Cassino diciamo, a te. K, anch'io ti ho ascoltato bene, dai. Catta con 3 watt sto uscendo già, questo qui mi dà 3 watt. Adesso Gianfranco era al telefono però, non vorrei disturbarlo. Lasciamo Bianco se si è finito la telefonata. Sì, Natalino, ma devo andare via perché mi hanno chiamato una cosa urgente. Ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Natalino, alle prossime scappo via. Riprendi già. Scappa, ciao sopravvoturati, vabbè. Ho capito che l'amico è dalla Sicilia, ma non ho capito la città. Avanti, l'amico di nuovo. Da Frosinone, già. Ah, Frosinone, capo. Io sto scendo con Ruiz adesso, mi liscio liscio. Capo, ciao Gianfra, se stai andando via. Da Frosinone era l'amico Ivan. Andiamo un po', Ilva, ci sei ancora? È caduta la propagazione da te. Sì, perché una propagazione che va e viene. Poco fa è entrato un altro da Pontedera. E ogni tanto si alzava, si abbassava, c'era molto QSB. Cavagava. Io mi sono creato un posticino col ventilatore, sto così bene, ragazzi. Speriamo non mi piglia dolori, salute. Ah, va, mi era vicino, io ce l'ho un po' lontano. Io c'ho di quelli piccolini da computer che girano come ventilatori grandi, no? Quelli che ti metti davanti al computer, eccetera, e praticamente c'è un accumulatore, dopo un po' che funziona elettrico, lo stacchi e funziona lo stesso, capito? E così ce l'ho anche io, se vuoi te lo regalo, perché mi ha crepato una volta quello lì, che ce l'avevo vicino al computer, cazzo, mi ha ammazzato. A che va un trombone, l'aria usciva da lì e mi arrivava a faccia, mi ha crepato. Oh, pari così, però fa vento, fa un bel vento. Ehi, ti sto dicendo, me l'avevo fatto io questo ventilatore, ce l'ho qua sopra, ed è con un trombone, e praticamente l'aria viene convogliata tutta in questo trombone, ce l'avevo nel computer vecchio, e io, per raffreddarlo, e io mi ho fatto il ventilatore da quella ventola lì. Però mi ha crepato, forse era troppo vicino, boh. Mi sta rinfrescando benissimo, mi prende tutto il corpo. No, troppo bene, prima avevo l'aria condizionata attaccata, poi l'ho staccata, che se no sono tutto il giorno con l'aria condizionata attaccata, se no mi arrivi la bolletta, e ho attaccato questo ventilatore di noi. Ho capito. Già, meno male che non ho avuto conseguenze per il vaccino e voglio buvi, mi grebbia, lo ventilatore. Anzi, non ha bisogno, non è manco di chi domanda. E mettilo a cambiare l'aria, a far girare l'aria. Sono tutti verso di te. Qua si sta troppo bene, qua mi dà una frescura allucinante. No, già sto girando già. Sta funzionando. Solo che già è lontano, no? L'altra volta quello piccolino mi ha crepato, era troppo vicino. Ora, Sud Italia, chiamo, prego. Attenzione, Sud Italia, se ascolti l'isola sarda, cambio. Positivo, isola sarda, ti ascolto, puoi andare su 11, cambio 11. Capa, c'è la ruota qua, dai, resta qua, che così anche gli amici parlano con te, perché abbiamo la ruota qua a Sassari, dai. Ma c'è un casino pazzesco qua. Capa, dai. Vabbè, comunque ci sono anche l'amico Natalino, Gianfranco, vediamo un po' se li cupi. Dammi un segnale di Radio Santiago, per cortesia. Sì, c'è un basso, sente tante ondulazioni, ed è per quello. Sono gli stieri qua, non capisco. Aspetta, spostati un attimo sull'11, scusa. No, sul 12 vai. Ma io rimango qua. Tanto non me ne affitto nulla di Davide. Attenzione, canale 10, ascoltate l'isola sarda che chiama, cambio. Attenzione, canale 10, l'isola sarda fa chiamata, breakover. E a me, mi senti? Hola. Andiamo sulla porta. La portante mi hanno messo. E forse qualcuno volontariamente. Attenzione, canale 10, l'isola sarda fa chiamate se si tolise l'ascolto. Gaba gaba, gaba gaba e gaba gaba. Ecco, isola sarda, Ivan Zagrone. Attento, Frusinone, chi sei, Ivan? Campa, Ivan, ci siamo già accoppiati, dai. Anda bene, va bene anche il tuo segnale, dai, ma quanti watt stai usando? 9, 9, 9, 9, 6, 9, 6, 9. Cavagava, va bene, interessante sentirsi, Ivan. Positivo, positivo, ok, dai, continuo con le chiamate, buoni collegamenti. Campa, Ivan, grazie per il QSO, dai, ci sentiamo, l'isola sarda ti abbraccia, ciao! Appa, positivo, qua la città di Castino ti manda un radio abbraccio. Kappa, saluti tutti i colleghi della zona, dai, avanti Natale. Saluti Tony, che da parte mia fino al Puno dalla zona di Sassa, in modo di Sardegna. Ciao Ivan, alle prossime. La portate se volete, ma già passo. Sì, beh. Lascia di mettere. Laga di buoni. Arrate te la stavo mettendo, ta ta ta ta ta ta, così. Quando passa Natalino? E se non passo, spengo. E ma infatti a tutti i dini. Vabbè, continuate pure, dai. No, qua passa Claudio, qua passa tranquillamente. E ma qua no, quello... già segnale tu attaccato, fatti il conto. Chi è la gara? Gianfranco, penso che sì. Gianfranco ha detto che andava... picchia, annientato ti ha. E perché adesso attacca? Si sente che rumore. Vabbè, da. Non mi interessa. Adesso faccio... e lui si gioca. Attenzione, canale 10, l'isola sarda fa chiamata, ricova. Attenzione, segnali. Fondo scala arrivava qua. Cosa sta attaccando, Natale? E anche qua. Non vuoi forte. Già sai, fatti suoi. Ehi, finché non riesci. Occhio. Però non so se hai notato che c'ha un rumore strano questo lineare quando l'attacca. Sì, pure in calcio va dietro. Non mi provoca, se no ti faccio la mia mancata. Lui, gli arusaghi, lo so, no, siccome non è attaccato lineare, ho già... sul più del 30. No, l'ha attaccato, che prima a me mi arrivava più, Natalino passava, adesso non passa più, e fondo scala, ragazzi, se ci fosse stato ancora spazio l'acqua avrebbe camminato ancora. Appunto, io sono 2 chilometri da Sassari, sul più del 30, è fortissimo, molto forte. Quindi mi ha attaccato perché prima Natalino passava, adesso non passa più, la niente, frutto. Me lo passava anche io, vabbè, Natalino molto d'accordo, va per me. Ma infatti che la riprova a mettere a portata. Non c'è lamentare. Da Torino. A chi mi risegui? Ciao a tutti. Ciao, Taricato, adesso è sul 30 proprio pieno, 9 più 30 spaziato. E te l'ho detto io, se no avessi ancora spazio andrebbe ancora avanti lì. No, vabbè, io sto andando con lui a ISU, quindi già ce n'è ancora ad arrivare al 60, però cazzo è un segnalone. Arrivi anche Roberto Quadrato. Vabbè. Non so come fare a disturbare le persone, là. Eravamo tranquilli. Già, io quello che ho detto ho fatto, la radio è passata in secondo piano, se posso parlare parlo, se vi posso salutare, se no vi ascolto, guarda, tutti i giorni, tutti i santi giorni, ma non entro proprio a chi non ha più ganetta, non me la fotti nulla. Va bene, dai, ti saluto e rimango in ascolto, attacca e fai i collegamenti a Futtindini, già non te ne metti a te portante. Vabbè. Sì, poco c'è da attaccare, devo andare a prendere l'arena fra poco. Avanti, break! Io sono Gianni Doppio Rum, dalla città di Sassari, Nord Sardegna, avanti. Sì, ti sento. Ti sento molto basso, ma ti sento. Cioè, il segnale è buono, ma la radio è bassa. Non capisco perché. Il segnale è buono, il segnale è 9. Ti ascolto 9 di segnale, però la radio è molto bassa. Non capisco, forse è un microfono normale. Adesso io l'ho alzata, vediamo un po'. Mi ascolti bene? Per provarci io. Anche qua arriva basso, Santiago 3. No, qua di segnale era forte, la radio era bassa. Qui ci sono altre modulazioni sotto. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Becco, becco. Ci sono le modulazioni, ma sono molto basse e si sovramodulano tra loro. Magari in qualche altro canale c'è qualcosa. Poco tempo fa mi sto facendo un po' di orario e vedo uscire di nuovo, è un caso, grazie, non mi dà dei guai, sono di così bene a casa. Anche qua sta bene, molto bene, fuori è un disastro, veramente. Manometro di fuori mi segna 33 adesso, allora di punta era 36, figura di due. Dentro sta bene, dentro saranno 21, 22 gradi. E tu sei in campagna, Claudio? Io in città, a me mi ha segnato 38 gradi alle 4 e mezza che sono uscito. Figurati, beh, la differenza già c'è sempre, però cazzo è assurdo, mamma mia. Se abbiamo un'estate del genere, la vogliamo buona. Un casino, E vabbè, là. Cerchiamo di andare. Ma non sto scendendo, non mi sto segnando. Ora, ecco. Sardegna, buonasera. Sì, adesso mi ricordo, perché l'avevo messo su 1000. È normale che si muovi poco con 4 watt. Ah, ehi, qual è il cibo che ti sta chiamando? Sardegna. Avanti, chi chiama la Sardegna? La città di Sassari che ti risponde. Buonasera, è una settimana di mano, avanti. Non ho capito da dove stai modulando, ti arrivi un po' basso. L'operatore Gianni Doppio Rune della città di Sassari, ripeto, avanti di nuovo. Capisco che stai modulando, ma c'è molto QRM, di radio non arrivi molto forte, c'è QRM la propagazione. Mi sembra che hai detto stazione Marco, se non sbaglio. Claro, tu lo occupi lì. Vai, già no, io rimango in ascolto, vai. Capa, avanti, chi chiama la Sardegna? Capa, amico di Frosinone, mi hai sentito, dai, l'operatore Gianni Luperun del QTH di Sassari. Avanti di nuovo, Frosinone, non ho coperto il suono inattivo. Ci sono molte sovramodulazioni, non ho copiato. Avanti, ripeti se riesco a copiarti, ma c'è qualcuno che sovramodula. Capa Marco, dai, adesso ho copiato meglio, dai, dalla provincia di Frosinone. Come mi ascolti in quella zona di segnale di Santiago? Gatta, gatta, dai, hanno messo la portante qua, stanno divertendo. Vabbè, dai, ti saluto, mi ha fatto piacere sentirti, ma qua non si può continuare, c'è qualcuno che il dito se lo deve mettere da qualche altra parte. Tu arrivi con QSB da 8 a 9, arrivi. Ciao, grazie, 7351 a te, tutto il tuo correa, dai, un salutone, un abbraccio. Ciao, vado a farmi una spazzolata qua, vediamo un pochettino se c'è qualcosa dagli altri canali. Vai. Ora, attenzione, canale 10, l'isola Sarda fa chiamata, cambio. Ciao, lì si tentino, va. Roba è acceso. Ciao, Gianni. Sale subito la portante quando accendo la vita. La trasmissione è 12 bit. Di baracchini. Ha poco preso con l'effetto ecco, non hai visto? Tutti i media alla 48, 68, li stavano tutti facendo fuori. 220 euro. Basta, guarda su Facebook. Ce ne sono 4, ce ne sono di quegli apparecchi. Ma io sono a posto, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, e il maggio. Non so più che ascendi e quando facendo. Adesso stavo facendo fuori di ex, così l'ho acceso il Ruiz per farlo scaldare anche. Questo che è perfetto, non c'ha, non va una bicicletta, è proprio perfetto, perfetto. Non c'ha un graffio, niente, è nuovo, nuovo. Ogni tanto lo faccio scaldare e poi i miei preferiti sono il Cobra, anche gli altri sono belli, però ci sono quelli che preferisco là. Sì, ce n'è di baracchini, capito? È pieno. C'erano tombato 120 canali l'altro giorno, 70 euro, nuovo era. Ma non me ne frega niente, ce la faccio a riempirmi la casa di baracchini, torna, non esiste. Ce ne ho baracchini, c'ho il tornato, ma c'ho il 2009, c'ho il FM500S, c'ho quello nuovo che ho comprato nuovo, il quadro e banda, poi c'ho contatti, il coso da parte cinese, il Pavuiu, i portatili, ne ho, c'ho il Bofeng, poi c'ho due portatili che fanno la 140-150 e poi marini, nuovi gruppi, gli scatolati. Figurate, ho voglia di avere la roba. E non è fatti, cosa ne fai di questi baracchini? In massa sono uno, due al massimo, noi che siamo fissati, che ci facciamo, non noi solo, dai, se c'è gente fissata, no? Questo qui che l'ho venduto a me per dire era un amatore di radio all'epoca, le metteva tutte in vetrina, le comprava nuove senza usare, le metteva in vetrina. E addirittura ce n'aveva qualcuno che aveva il cielo a fare nel microfono ancora. E le stava vendendo perché è diventato un radioamatore e vuole fare spazio, diciamo, vuole fare un più di soldi per comprare un radioamatoriale, dai. Questo qui ho pagato bene, questo apparecchio qua, ho rischiato, perché ho rischiato, ho pagato 230 euro costo di spedizione, ma è nuovo, se me lo mandava difettoso avrei perso i soldi. E vabbè, il fatto è che ce l'ha, che sei stato fortunato, quindi figurati. Quindi va bene, dai, è andato bene, hai avuto a pagare io, già lo sai, ho avuto il 80, il 140, poi ho pigliato l'altro 140, poi l'ultimo ho preso una decisione, puoi stare con 40 baracchini, uno per ogni frequenza, quello mi sono pigliato in qualche banda, tolgo quello e lo uso per tutto. Dalla stazione fissa, capito? Sai così sto facendo, adesso sto facendo girare FM500S perché il coso, un altro baracchino, lo ha Giovanna, e tu usalo tu, con il 4000 così lo fai girare. E ti vedo il suo, ce l'ho qua io, a casa, la colonnella. No, io ho un apparato che è la fine del mondo, va benissimo. Il Cobra 200 GTDX, per lui è una bomba. È bellissimo come apparecchio, c'è forte, non ha bisogno nemmeno di lineare, va alla grande, c'è due dissipatori allucinati. No, io va bene, con le cose così grandi americane, non mi va bene. C'è un coso, un petrol succede, 220 euro, colore alluminio, bello, veramente. Però 220 euro se la bobina in culo, e dove è il petrol, non mi frega niente. Non posso riempirmi la casa di apparecchi, cazzo. Poi nel caso che tu io cosa fanno? Vengono cazzo tutti i cibi a casa mia. Io tipo, vedi, dammi tutto, ti do 200 euro e mi porto via tutto. Quindi meglio prima di crepare, avere poca roba almeno, sono più tranquillo. Vabbè. Diciamo che noi ci è sempre piaciuto, siamo da ragazzini che ci piacevano gli apparecchi, quindi ne abbiamo girato, a me mia moglie mi diceva, se con tutti i soldi che comprate gli apparecchi non saresti stato ricco, ma un bel gruppo da parte l'avresti avuto. E quello c'è ragione, anche a me mamma diceva che se fossi di questa baracchina ti avessi comprato la macchina mentre ti avessi piato la patente, quest'ora avete avuto il lavoro, sei stato tranquillo, io, ma su questa passione, meglio questa passione detto che il bando, io ho detto la verità, anche se gli albaci andavo lo stesso, però cosa fai, una volta che non c'è più lavoro per trovare gli amici te ne vai tutto il giorno a bar a giocare a carte, è peggio, perché subito ti fanno così, un giro uno, un giro l'altro ancora, a casa e torni a casa che sei tutto imbuffato, quindi a un certo punto non cambiano le cose. spiare che stai cercando il tunnel perché ti sento un po' cupo. Eccolo qua. Sono anche il torcia. Sì, c'ho anche il tunnel, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedi, come ti sento bene? Sono l'MB più 4. No, lo sai che l'MB più 4 è sempre stato leggermente cupo, ma l'ho avvezzato un po' col cambiato della capsula, che è buona, è la capsula di cosa, di videocitofoni con gli antichi, quindi è molto sensibile, infatti sentirai il televisore dietro, perché con la capsula originale sentivi solo la voce bassa, non sentivi altro. Allora, ti saluto che non ho visto l'ora, devo andare a prendere la mia compagna, dai. Ci sentiamo, alle prossime. Ehi, ciao Gianni, ci sentiamo, stai bene. Ciao Claudio, sì, dai, ciao anche a tutti gli ascoltatori. Binario 10, binario 10, c'è qualcuno? K! Ciao Camillo! Die Einstellung hat er übernommen, aber es ist immer noch was noch. Habe ich nochmal die. Hola, chicos! Wenn ich das finale Mikrofon dran lasse, avanti! Attenzione, binario 5, binario 5, copiate Antonio K! Wahrscheinlich das M1. Ciao Garnibui! Weil ich habe gern alles von einem Hersteller. Aber ich bin auch heute, das kann auch gleich davon liegen.